baby. I get so scared inside and I don't really understand. Is it love that's on my mind or is it fantasy? Heaven is in the palm of my hand and it's waiting here for you. What am I supposed to do with a child of tragedy? If I close my eyes forever, will it all remain unchanged? If I close my eyes forever, will it all remain the same? Sometimes it's hard to hold on, so hard to hold on to my dreams. It isn't always what it seems when you're face to face with me. Like a dagger, you stick me in the heart, it takes a blow from my blade. And when we sleep, would you shelter me in your warm and dark and gray? Close my eyes forever. Will it all remain a change? If I close my eyes forever, will it all remain the same? Aloha, buongiorno e ben ritrovati. Questo è l'Early Bear Special, tutti i giorni dalle 6 alle 7, dalle frequenze di Rock FM. Questa è la prima colazione che serviamo da queste parti, e modestamente. Con voi c'è il vecchio Chuck Bird. Grande musica anche questa mattina, ve lo garantisco, e anche qualche bella storiella sulla vita da rock and roll stars, come piace a noi. È venerdì, thank God it's Friday, e per iniziare alla grande ho scelto per voi un brano dei Mod Hoop, The Young Dudes. when he was 25. Speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when the ceiling glows from moths and sparks, and Freddy's got spots for ripping up the side from his face, funky little road race. The television man is crazy, Sam with juvenile delinquent Rex. Oh man, I need TV when I got T-Rex. Oh brother, you can't, I'm a dude now. Oh, the young dude. Hey, dude. Carry the news. Where are you? Do-do-do-do. Stop, stop. Oh. Carry the news. Oh, the young dude. I want to hear you. So carry the news. I want to see you. Do-do-do-do. I want to talk to you. Carry all of you. Now. He looks sweet because he dresses like a queen, but he can kick like a mule. It's a real mean team that we can love. Oh, yes. Stones. We never got it off on that revolution stove. What a drag. Too many snacks. Now I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some cap to bed. Oh, is there concrete all around? Or is it in my buongiorno e ben ritrovati, qui è la tavola calda più rock and roll del pianeta. Si chiama Hurley Bear Special, la ricetta vincente, buona musica e qualche chiacchiera sulla vita delle rock star, dei grandi momenti e dei più infami pettegolezzi, ma anche delle copertine, perché no, come quella di Metal dei Pink Floyd. Ve la racconterò tra pochissimo, tanto di tempo ne abbiamo. Sarò con voi fino alle 7, momento in cui arriveranno in mio aiuto Ariel e Freak Anthony, la squadra di pane, burro e rock and roll. Ma sì che lo sapete cos'è, quello con la sigla che fa più o meno così. Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know. Lots of other ways, what a jolly bad show. If all you ever do is business you don't like. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing. Grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. Here's a little bit of advice, you're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cutless, you know what they'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. No ragazzi, non siete in ritardo clamoroso, la vostra sveglia ha suonato al momento giusto. Questa era Sex and Drugs and Rock and Roll, non la sigla di Pane, Burro e Rock and Roll, era Ian Dury. Ma vi avevo promesso qualcosa sui Pink Floyd, anzi, su una copertina di uno degli album dei Pink Floyd, uno degli album più controversi tra l'altro della band, che è Metal. È un disco non privo di materiale superfluo, il jazz facile facile di Saint-Tropez e soprattutto quella che per molti fans dei Pink Floyd può tranquillamente aspirare al titolo di peggiore canzone mai scritta. Il finto blues Seamus, dove la voce solista è affidata all'uggiolare di un cane. Anche la copertina di Metal è molto meno centrata rispetto a quella dei precedenti album e certamente non era curata come quella dei successivi Dark Side of the Moon e Wish You Were Here. Molti fans non hanno ancora capito che la foto di copertina, opera di Bob Drolling, non rappresenta delle bolle psichedeliche messe lì per caso, ma è l'orecchio che capta le onde sonore, qui rappresentate da cerchi sull'acqua. Metal è sicuramente il meno riuscito dei lavori fatti dallo studio Hypnosis per i Pink Floyd, anche se l'idea veniva direttamente dal gruppo. Beh, possiamo dire che ci è andata ancora piuttosto bene, perché l'idea iniziale, poi bocciata da tutti i responsabili della casa discografica, era quella di mettere in copertina il primo piano di un culo di babbuino. Copertina a parte, su Metal c'era almeno un grande pezzo. La leggendaria One of These Days. Yeah, here. ma pane, burro e rock and roll è piuttosto invasivo questa mattina. Questa degli Shocking Blue Send Me a Postcard era stata utilizzata dai nostri Ariel e Freak Anthony quest'estate per promuovere la loro benemerita iniziativa sull'utilizzo della cartolina illustrata come mezzo di comunicazione. E noi l'abbiamo riutilizzata, magari invitando a spedire ancora delle cartoline illustrate, anche d'inverno, perché non è mica sbagliato, non è che prendono freddo durante il tragitto dalla vostra casella postale alla nostra casella postale. Mandateci una cartolina qui in via Locatelli al numero 1 a Milano, 20124, il codice di avviamento postale. Al momento io però mi voglio fare ancora una tazza di caffè nero bollente, perché è arrivato il momento giusto. Venerdì, thank God it's Friday, e thank God Cherie is with me. Thank you, Cherie. Burr Special, la prima colazione qui a Rock FM, tutti i giorni dalle 6 alle 7 in compagnia di Chuck Burr. Grande musica di ogni genere, ad esempio questi erano i Sister of Mercy, tenebrosissimi, gotici, con la loro Hallies. cambiamo completamente pagina. Vi regalo un biglietto di andata e magari di ritorno, ma non credo che voi avete voglia di ritornare. Da Los Angeles, Van Halen, When It's Love. Love. Van Halen, tra le cose più belle uscite dalla Los Angeles degli anni Ottanta. O pare che proprio sia imminente il loro tour mondiale. Chiaramente non ci perderemo l'esibizione di questi ormai cinque vecchietti. Cosa sono? Cinque o quattro? Si ricorda. Va bene, When It's Love. E ora un'altra band che non se ne vuole proprio andare dal palcoscenico. Aerosmith, Swift Motion. Well, I just heard the news today. It seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray. Then tears of joy stream down my face. Venerdì 5 ottobre, ho voglia di parlarvi dei Rolling Stones. Mi piace moltissimo parlarvi dei Rolling Stones, perché i Rolling Stones, ammettiamolo, se non fosse per loro, forse noi non saremmo qui a chiacchierare dei microfoni di una radio che si chiama Rock FM. Forse io sarei qui a quest'ora però a parlarvi di ricette su come riparare la camera d'aria della vostra bicicletta. Gli Stones sono gli Stones, e lo sono anche perché attorno a loro si è creata un'aura mistica. E perché, diciamocelo, non si sono mai fatti mancare nulla in fatto di sesso e droga. Pensate che nella classifica delle 100 migliori canzoni con argomento le droghe, gli Stones compaiono per ben due volte. In quarta posizione con Sister Morphine, dall'album del 1971, Stick Fingers, il cui testo fa espliciti riferimenti alla morfina, beh, anche nel titolo, e alla sua cugina, cocaina. E poi sono anche al 70° posto con un pezzo che parla dell'uso e spesso dell'abuso che le casalinghe fanno degli antidepressivi. La canzone in questione è Mother's Little Helper. What a drag it is getting old. Kids are different today. I hear every mother say, mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper, and it helps her on her way, gets her through her busy day. Things are different today. Say, cooking fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake, and she finds a frozen steak, and goes running for the shelter of her mother's little helper. And to help her on her way, get her through her busy day. Doctor, please, some more of these outside the door. Don't appreciate that you get tired. They're so hard to satisfy. You can tranquilize your man. So go running for the shelter of a mother's little helper. And for help you through the night, help to minimize your flight. Doctor, please, some more of these outside the door. Pursuit of happiness just seems a bore. And if you take more of those, you will get an overdose. No more running for the shelter of a mother's little helper. They've just helped you on your way through your busy dying day. Rolling Stones! Siete pronti al weekend rock and roll che ci aspetta? Io ho fatto del mio meglio, vi ho presentato delle canzoni bellissime e vi ho raccontato anche delle storielle divertenti. Spero che siate partiti col piede giusto, io ci conto. Ci ritroviamo lunedì dalle 6 alle 7 perché l'Early Bird Special non vi lascia mai. Io intanto vi lascio nelle mani di Ariel e Freak Anthony, il loro pane, burro e rock and roll. Da Chuck Bird è tutto, aloha!